sentito, è nata lì. No, non ho sentito, se parlate in 50 non lo sentono. Se sono in via Milano. Sento che mi fermo a prendere le sigarette da Graffiella e poi passo al quadrato, fatti trovare lì. Vabbè, allora mi faccio trovare al quadrato, tanto sono in via Milano, dai. Vabbè, 9.25 non viene. Oh, Buttino, sono nella gabella portante. Ma schifo fatti, non vale un ciacco, non vale, per carità. Vabbè, divertitevi signori, che non ne voglio ricattare. Ciao a tutti, poi dite perché la gente non entra e perché rimane in ascolto. A tutti i 27 non è rimasto più nulla. Ciao, ciao. Ciao, Claudio. Angeli, Santiago 9, anche da me, dai. Ciao, Claudio, ciao. Grazie, Dio. Vabbè, dai. Il giorno che lo trovo, vedrà cosa li faccio io. Mi basta tutta la gara. State sbagliando, non è lui, non è quello che sta dicendo Claudio, non è lui. Lo sappiamo meglio di Giulio chi è. Ciao Claudio, ci sentiamo. Ehi, già lo so, già è lui, quello che dico io. Futtidini, ed è così. No, non mi sbaglio. E cosa vuoi fare? Quando uno è guaccio e basta. Oh Giulio, se io dico a te, la ciotola, tu non mi rispondi? Che vai alla 26 fronti? Luca! Oh dai raga, io vi saluto tutti quanti, che ne faccio il correttivo, vado a caricare, dai. Salutone a tutti, non so chi c'è perché purtroppo non è un casino, non riesco a capire niente. Angeli, mi ascolti a me? Positivo, Zio Natali, Santiago 9, Radio 5, cambio. E in via Milano sono in barra mobile, dai Angeli. E c'ho anche l'antenna piccolina. E a me mi ascolti Angelo, dove sei? Cappa, buonasera, doppio lunga questa parte. Cara gara, va bene Angeli, alle prossime. Dai, salutone a tutta la ruota circolare, alla prossima. Ciao Angelino, se mi ascolti, dai. Ciao a tutti. Ciao Angeli, ci sentiamo, ciao. Avanti qui. Un attimo di bianco per me. Yeah, fuma, fuma. Ma fuma che è lunga, diviso di pari. Allora. Luca, la tariffa via, la dentista attaccata allo fronte va via, precisamente. Dai, vabbè, anche io volevo chiedere una cosa, se ne è già andato. Oh Luca, sai cosa ho fatto oggi? Così mi ha sbagliato l'uso. Ho preso, ho girato la parabola verso il satellite di Atla. E ci sono un sacco di canali francesi, tedeschi e spagnoli, ma anche molti inglesi. Solo che prendi tutti quelli italiani, però io ho già il doppio illuminatore, sì che già vedo anche quelli, capito? Ma la parabola è spostata. L'ho spostata, siccome Astra, prendevo Astra 2 e Astra 3, no? Oltre a Otibird, Amos 1 e qualche altro satellite anche, l'ho spostato per prendere tutti i canali Astra, l'ho spostata per appena un millimetro, mezzo, due millimetri o di più dalla posizione precedente. E dunque entra in pieno tutti i canali Astra, ma ci sono tanti quei canali spagnoli, francesi, inglesi e tedeschi tantissimi, e il segnale è anche molto più forte, infatti la qualità del segnale, il televisore mi segna il 98%, a differenza di Otibird che mi segna intorno al 75-80% di qualità del segnale, capito? Ascolta Giulio, una domanda. Ma se io metto la parabola, cioè i segnali, cioè i canali normali arrivano lo stesso, anche senza digitale? Sì, vedi quasi tutti quelli media, cioè vedi tutti i media set, la RAI li vedi lo stesso, però magari ci sono dei momenti che sono a pagamento, allora non trasmettono, capito? E allora in quel momento lì non li vedi, però li trasmette, su Otibird ci sono, però poi ne vedi altri 150 a canali italiani, prendi tutto, Tele Roma, Tele Calabria, Tele Verona, tutti quanti vedi, dalla Sicilia, dal Piemonte, tutti i canali italiani, vedi, 150 ce ne saranno in circa. No, giusto per sapere. Pare che sono intenzionato di mettere la parabolica. Sì, la parabola è una cosa bella perché ci sono tanti, ad esempio stasera c'era il campionato tedesco e c'erano almeno 6 o 7 canali su Astra che stavano trasmettendo le varie partite del campionato tedesco, sì che ti puoi immaginare, se uno è appassionato del calcio e vuole vedere quelle partite lì, si poteva sintonizzare e le vedeva tranquillamente senza pagare niente, a differenza dell'Italia che se vuoi vedere una partita deve pagare con la tessera, come faccio io qua per vedere il campionato seriale eccetera eccetera, però diciamo che magari in questo momento, per dire, può darsi anche che non ci sia, tanto per fare un esempio il secondo canale, perché sta trasmettendo un programma che è a pagamento, lo sta trasmettendo per chi ha l'abbonamento, capito? E così vale anche per certi programmi stranieri, cioè certe TV stranieri, ci sono tanti di quei programmi da vedere con la tessera, ma se uno non vuole spendere chiaramente quelli non li vedi, è solo a buio e basta. Ho capito. No, adesso voglio dire, a titolo informativo, ecco, volevo sapere se potevo farlo. E adesso vediamo, perché sono presa un vicino di casa, 100 euro l'ha pagata, compresa di decoder. Sa, già piazzata a vedere tutto, Rai 1, Rai 2, tutti li vede, tutti. Adesso vediamo, sono indeciso. Sì, ce ne sono tantissime, caspita, le cose che io riesco ad agganciare, 4.000 canali, ti puoi immaginare, ne puoi vedere tra Astra e Ottibirdi, ammesso che tu riesca, mettendo il doppio illuminatore, cioè la parabola in una determinata posizione, no? A 13 gradi a sud-est, che è Ottibirdi, però c'è un doppio illuminatore, mettendo il doppio illuminatore puoi vedere anche Astra, puoi vedere e puoi prendere anche 1200-1300 canali, capisci? Ehi. Sì, passo vediamo, ora sono indeciso. Se mettere qua, 100 euro costa, completa di tutto. E per la magia me la piazzo io, non voglio un diploma, mi busco lo strumento, me la piazzo io, faccio la calata. E faccio tutto io, senza chiamare nessuno, tanto non è facile, non è difficile. Sì, adesso vediamo. Perché questo digitale, mini zombaghi, non funzionano bene. E io sono andato a fare un impiantino con un amico, sembra fa, cazzo, questo digitale ha rotto. Poi ci devo aspettare un bel, perché non accende subito, deve scaldare, non so caricare, se non accende. Qualche secondo sì, ci vuole, quello sì, ma sono momenti accettabilissimi, non è che una vita, no, cosa ci vuole? Caspita, una volta che è tutto programmato, quando cambi da un canale all'altro, magari 3-4 secondi passano, questo sì, non è che, però è accettabile, va bene così. Digitale comunque è una cosa, la parabola è un'altra, Poi nella parabola ci sono i canali che interessano a te, l'altra volta ne aggiungo un tanto, c'era una roba di 80 canali, tutti quanti di quelle donne in vendita, pubblicità naturalmente, no? Roba di 80 e più vendita in tutti i canali, in mille e tanti canali. Quale non ho capito, quale interessano a me? Allora, tu a te non ti interessano quei canali lì, e poi vedi che si così. Cosa mi da fuggire a me? Via. Via. Basta Sam. Cosa vedi? Giulio, perché da io ci siamo da. Siamo poi da. La gente da profonda, dove io? Pago subito a vedali. Ah beh, io sì, lo so. Vabbè, ma per dire, no? Se uno vuole vedere, vede, basta, tutto lì, niente di strano. Capito? Vabbè, comunque. Comunque ci vogliono tutti e due, sia altre cose che la parabola o Luca, per andare bene. Te lo piazzi su un unico palo, non vedo problemi. Tutto, basta far mettere delle graffe come si deve, perché la parabola ne prende il vento, e quando soffia ne prende molto. Sì, in effetti hai ragione tu, poc'anzi, con 100 euro ti prendi tutto, compreso il cavo. Io l'avevo pagata, mi sembra, 80, 85-86 euro la parabola con l'illuminatore e il ricevitore, più ho comprato un cavo, la parte, e in tutto 100 euro, hai ragione, è una cosa così, l'ho piazzata io tranquillamente, no, non ci sono problemi, si vedono un bel di canale, un bel, molto interessanti anche ce ne sono, io parlo di quelli italiani, gli altri no, l'altro non lo comprendo cosa comprendo, cosa dico su di sì, vabbè, posso capire con gli spagnoli, perché tante parole si capiscono, però diciamo che è interessante, dai. Un attimo, Gianni? Ehi! Dove sei già? Sono via Baldetto, e io sono già arrivato lì, e sto aspettando. Gara. Quindi ci riguarda Gianni i programmi, non io, Giulio, Gianni riguarda molto. Chi non ha Gianni parabola? Cazzo di ricevitore che c'è io l'ho pagato 1,5 milioni, è per un gol. Prima costava un sacco a livello di milioni, e prima quello analogico, quello motorizzato costava anche 5 milioni, invece oggi è una miseria, cioè rispetto a come era prima. L'ideale sarebbe motorizzato, Natali, perché col motorino per girare la parabola e agganci tutti i satelliti, però diciamo che l'ideale massima, basta anche la parabola fissa, non vedo problemi. Poi a voglia, tanto ce ne sono molte che vengono ripetute di questi canali, cioè mi spiego bene, ad esempio o ti, per dire non so, ha una serie di canali, no, però anche l'altra ha una serie di canali che già trasmette Otibird e così via, per altri anche satelliti, capito? Sì, che tanti vengono ripetuti dai vari satelliti, capito? Per forza, già lo so, già, non ne guardo mai, ci credi, tu è sempre che mi chiedi, sia la barambola che ero. C'ho il posto per un'altra cam, che poi il mio è interface, come interface, che puoi farlo andare in tanti modi di emissione, no? Secondo la cam che metti puoi ricevere altre cose, in altre codifiche. Beh sì, certo, quello è vero, tante cose, anche tante altre lingue, un sacco di cose ci sono, che sinceramente c'è da perdere la testa col telecomando, che poi quando te lo ritrovi vicino, sicuramente vai di buro, perché non sai più quale tasto devi premere, e comunque diciamo che se uno ci sta attento già va bene, non è così difficile, può essere difficoltoso per una persona anziana, ma per una persona che ancora riesce a andare a posto con la testa, per la nostra età, la età che ho io e tu e tanti altri, i giovani ancora meglio, già va bene, anche se ne hai 3-4 il telecomando e portarsi in mano, cosa te ne affutti. Il problema ce l'ha magari una donna che va a 90 anni e effettivamente non occupa di più niente, tutto lì, allora, facciamo girare, Rich, sì. Allora, giù. Dimmi, già. A mio padre, prima di farlo entrare in zucca, che andava a toccare l'altro telecomando, ci ho dovuto mettere una settimana. Mi ha detto che funzionava anche con l'altro e che potevo usare anche l'altro. Perché dice non puoi più usare, che funziona? Lo so, purtroppo è così, ma tanta gente si è trovata in difficoltà adesso, perché ci sono delle cose, poi c'è un dépliant lungo da leggere, lunghi uno di piccini buoni per leggere tante volte, perché è scritto in piccolo, come fa una persona anziana? Poi non ha nemmeno la pazienza per poter leggere tutto e soprattutto per capirlo, non ha la mente per capire tutti i movimenti che deve fare col telecomando, e dunque si incasina a un certo momento, capito? E dunque è la cosa semplice, è la migliore, non ci sono dubbi, dare il telecomando normale e prendere i canali normali, tradizionali, e basta, non se ne parla più. No, giuro, io le ho spiegato le cose principali, ho detto, vedi, questo qui è più e meno per fare andare avanti i canali, per fare andare indietro, e questo qui è il volume, tu non devi toccare altro, basta. Lo so, non deve toccare altro, ma sai cosa succede? Alle volte magari tu non schiacci un pulsante che non devi schiacciare del telecomando e scombini tutto il programma, può succedere anche quello, lo so, vabbè, bisogna fare attenzione chiaramente, ma tutto sommato andiamo avanti lo stesso, non è un problema. Ok, avanti Lu. A te, Giulio. Sì, dimmi. Attualmente che andare amici di telefoni cordless. Sì, e io sono buio, ma oggi guarda, in un certo senso il problema ce l'hai nel telefonino di base, che è quello Aladino. Io da poco ho dovuto cambiare, anzi me l'hanno spedito direttamente dalla Telecom, perché avevo sempre il solito l'ultimo là, quello con la tastiera, che ormai non funzionava più. Sono andato a cambiarlo, non c'era più in produzione, non me l'hanno potuto dare. Allora mi hanno mandato un telefono Telecom, un Aladino, che si paga, tra l'altro, lo sto pagando 5 euro a bolletta al mese, per 10 mesi mi sembra, e poi diventa mio, diventa personale, no? È un sacco di cose, un sacco di modifiche, anche i giochi, basta, è un problema. L'unica cosa è memorizzare bene i tasti che devi utilizzare e basta, e poi tutte le altre cose le lasci perdere. Intanto cosa te ne fai, non è che ti devi mettere a giocare col telefono. Infatti, allora che donna lavora in una casa mia, mi riesco da faccia anche gli studenti. A vedersi da me che non si è pigliato a precedere da me, che non era un video. Mi si è scaricata la batteria delle cuffie e non sentivo l'ultimo pezzo che non l'ho sentito. Vabbè, adesso ho staccato le cuffie, avanti, riprendi ancora, va. Mi ha detto a vedere se la donna va a essere presa per precedere da me, perché non c'era il filo. Ma telefoneggia, no, io chiudo telefoneggia. Non mi vorrei aggredire, se non l'ha giocato il numero avrei dovuto mi arrecciare, mi credo. Che non è così, oggi purtroppo ci sono tante di quelle cose che gli anziani sentono a crederci, è chiaro? Purtroppo è così. Eppure esistono, ma è vivo il progresso, freghiamoci. Luca, ci sei? Sempre, ci sono sempre, non c'è problema, cappa, solo quando mi sto mangiando mandarino. Alla faccia mia, mangia tu, dilinguente. Ma te l'immaginate? Questo Luca. Ah, vero? Sì, è vero. Ma nella portata, è buttiluso. Lasciamo comune un bip, va. Ma, giù. Ma quello che c'è la denuncia già è. E allora? Che di ieri tocca ne la Ianna? La giottola, Giulio, la giottola. Compagna le quattro zampe, magna. Allora, un quattro sciarpe in padella. Sei qua. E dai, vabbè, voi ti piazzi, mi dà gusto, tu. Aspetta che vediamo se c'è Pierpaolo. Pierpaolo, ci sei? Giovanni? Avanti Giovanni. Ciao Giovanni. Giulio da questa parte. Luca, Natalino e Rita e non so se era l'ascolto, lo saprei già che c'è qua in questa ruota. Riprendi. Perché stava solo modulando? Stavo mio, mi sono a te, ero che ti avevo 30. Ehi, lascialo qua, già hai già denunciato. Hai detto preoccupato, già denunciato, dai, fatta la denuncia. Così impara. A parte che ha fatto una cosa che non doveva fare, ma comunque. Si miglia una e l'altra, va. Poi quello che riesce si prende. Ah, sei cutto, non ci imbriagheggia, ma di chicco. Che cosa? Però so che questo ci prende. Giù, eh? Uno più lo fa due. se te lo sto dicendo, io qua no, con la strumentazione che io avevo non può sbagliare lui, tu lo sai, no? E dunque, e lui è buco, perché non lo sappiamo. E tu dici che se fui buco, ma ancora ha compreso che è un bel tonto, non ha compreso il gruppo. Ah, se no, per muro, e poi mi fuoco una macchina, a vedere se entra una macchina, a vedere a si cagare. No, noi non le fermo niente, noi dobbiamo fare che deve fare. Ah, ma si è, non ci ha venuto, ma li porto con quella macchina, no? Noi dobbiamo fare che tal cosa, già non mi si la benna, fotte dinni. Ma se la porta la porta, andiamo va, io va. No, già passi lo stesso, cioè leggermente più basso di lì, ma passi. Pensi che non è lui, ah giuro, ti rimane bizzarro. Ehi, dai capà, già bella penna che ti scendi. Tu di nuda, se lo vuoi fare, non dici niente, vai glielo fai, senza di nuda no. Nonostante che il Santiago è bassissimo, è buona, eh? No, l'antenna si è provato su appunto, il capo ho cambiato. Non andava bene quel capo. Ah, ho capito, vabbè, meglio così, dai. È sufficiente comunque, ti sento benissimo adesso, no, non ci sono problemi. A differenza di prima, sino alla settimana scorsa mi sembra che non riuscivo a sentirti molto bene, anche nemmeno con le cuffie quasi ti sentivo. Però adesso ti sento bene, veramente. Diciamo che ti posso dare Radio 4, vai. Santiago bassissimo, però Radio 4. Vabbè, quel cavolo, non ci piace nulla, non mi credo un sacco di problemi, perché era sbagliata anche la misura. Ho capito, cioè la misura in che senso? Troppo lungo l'avevi fatto? No, fare 8 e 48 invece non c'era, era più corto, perché quello che me l'ha dato doveva 6 km con i chiave. Dava la misura da Paimi? No, l'avevo misurato con lui, certamente. Ho capito, sì, ho capito. Vabbè, ma vediamo un po' se Rita è rimasto o se sei andata. Rita, ci sei ancora? Sì, sono in ascolto. Ciao, Vera, adesso ti sento, eh. Adesso non lo so se me la sta mettendo la portante. Sembra di no. Un paio di colpi già gli hai dati sotto a fondo, si sentiva, però non ti fa niente qua. Bene, segnale 9, radio 4. È bassa la radio, ecco, fatta il segnale, molto bassa. Invece il coso è 9.10, 9.12, Vela è radio 5. Santiago 5 e mezzo qui da me, o Giova, e la radio è 5, a dei punti. Prego per il falegname che fa polvere. Bacchi, sì, ciao Bacchi, tutto bene? Avanti. Hai sentito che c'è frequenza, te lo devo dire. Ascolta, dimmi. Cristina, ciao Giulio, ciao anche a Vela, ciao anche a Luca. E anche a Maria Rita, se non sbaglio, correggetemi. Bene, Giulio, polvere facendo, ne sai. Sempre Bacchi, molta polvere, il mio lavoro è quello. Lo fa un bel di più, e cosa vuoi fare? Segratura, tagliare legno, trovo un cane legno, un bel, andare così. Ok, avanti Luca per Bacchisio Gigante di Sassari, uno degli anziani, più anziano di me della frequenza. Ciao Bacchi, salutoni, mi hanno ascoltato, qua forte e chiaro, vai Rita. Ciao Bacchisio, buonasera. Buonasera anche alla signora. Ehi, forte e chiaro, limpio, lavato con Ferrana, Luca. Già stanno bene, dai. Stanno bene, la grande, non c'è problema. Avanti Vera, a te il microfono, gappa. Sì, ciao, ben sentito, buonasera. Buonasera anche a lei, signor Vera. Sì, ma. Siete parrocchiani siete ma chi? Parrocchiani siete con me, eh? Anche con Giovanni credo. Con Giovanni chi? Giovanni che c'è frequenza in questo momento con noi. Avanti, non ho ascoltato, voglio sentire la voce, avanti questo Giovanni. Buonasera anche a lei. Ma anche tu parrocchiano sì, la tua dolce. Caparogero, posso sapere la zona, non è se sono molto curioso. Vicino a Vera, allora siete più giù di me, io sono più giù della chiesa, capito? Capo comprendi un altro, diceva lo Gaglianettano. E allora Giulio, come mai si è attaccato all'albicocco? Al birichino! Così stasera avevo 10 minuti di tempo, mezz'ora di tempo e ecco che ho acceso e ho sentito a Luca prima, Claudio e poi qualche altro che c'era, Natalino, Gianni, poi è entrato eccetera eccetera e sono ancora qui, tutto lì. 9 più 20 per te, Bacchi, radio supersonica e super stereo. Sicuro, no, sto usando quell'apparato che dovete che non si poteva riparare, no? Io siccome facevo il tecnico quando prima di nascere, facevo il tecnico, mi sono messo a passeggiare. Hai fatto bene, hai fatto. Ok, quello che difettava in ricezione, no? Connessi, così è. No, ma non andava in trasmissione, non andava in trasmissione. Ah, in trasmissione, ho capito. Vabbè, adesso è l'ultima volta che me l'avevi detto, quando sei venuto a trovarmi, adesso non me lo ricordavo, non andava in trasmissione. Vabbè, meglio così, sei riuscito a mettere a posto, da solo, tu da solo? Io da solo, senza fare niente, nessuno. Anzi, devo cercare ancora le viti perché me l'ha dato senza viti. Quello non è un problema, te ne do una cassa io di viti, vitine, viti di tutte le misure, ma chi non è un problema. Vabbè, facciamo girare, vai lì. Ia. E nulla, io vi lascio perché devo uscire, dai, ci sentiamo dopo, più tardi. Non uscire che c'è freddo, Rita. Vabbè, prendi un po' di aria. Ia. Va bene, ciao Bacchisio, ciao Giulio, ciao Luca, Vera, tutti gli altri che sono ascolto. Ciao Giovanni. Ok, riprendo ancora io e faccio girare. Vai Luca. Ciao, a più tardi, ciao, buona passeggiata. Vai Vera. Un attimo, saluto anch'io a Rita che sta andando via dalla frequenza. Ciao Rita, ci sentiamo alle prossime. Ok, vai Pierpaolo. Ok, ciao Rita, ci risentiamo alle prossimine. Ne approfitto anch'io perché anch'io devo uscire. Ci risentiamo magari più tardi. D'accordo Pierpa, ciao anche a te, allora salutoni, fatti sentire. Va bene, Giovanni. Ciao Rita, buona passeggiata e non spendere molti quattrini. Cerca di risparmiare. Bene, ciao anche a Pierpaolo Pena. Bene ascoltato, alla prossima anche per te. Avanti, Lu. Sì, ciao Pierpaolo, dopo, ciao. Vai giù, Pies. Natalino, Gianni. E quelli credo che non scese dalla macchina, da poc'anzi. Senz'altro, vabbè, ciao ancora Pierpa, ci sentiamo le prossime, va. Andà bene. Riprendi Giova. Giova, sparito sì. Giova, mi sei sentato? Ma chi? Riprendi? Ebbene, allora, cosa mi racconti? Cosa ti racconti? Mi sono seduto qua, detto, riesci a vedere un poco. A vedere, mi era a fare un giro di canali, a vedere se sento qualche duro. Come acceso invece, era sul 10, ho scritto a Giulio. Lui che fa il buco del legno e ti ha detto salutare, vai. Ok, e a me mi fa piacere questo. Veramente, di cuore, guarda, non ci sono problemi, tu lo sai benissimo, noi siamo amici da oltre 35 anni, perciò problemi non abbiamo mai avuto, mai e mai ne avremo, perché siamo persone civili. Avanti Luca. Ehi, 2 secondi di bianco per me. Adesso faccio una cosa qua, 2 secondi. Vedete voi, dai giù. D'accordo, siamo domani io e Bacchisio, riprendi i Bacchi tu, allora vai. D'accordo Luca, fa pure. Fa come sei in casa tua, capito? Fa come sei in casa tua. Ehi, no, anche quel microfono là messo a posto, quello che ho detto, che ci ho passeggiato un po' sopra, le ho cambiato la capsula, gli hanno messo un'altra diversa, perché quella sua, boh, non mi sembrava che non rendeva. E gli ho messo un'altra più grande, solo che non sta dentro il suo supporto, e me l'hai girottata. Te l'hai girottata? E come? Sopra, così, appoggiata sopra? No, è appoggiata nel buco, siccome ha lo stesso diametro esterno, gli ho appoggiata sul buco e gli ho messo un pezzo di naso isolante. È vero il microfono, vero la capsula, vero l'altro, ma così vedi. Ah, ho capito, sì, davvero Matteo, sì, perché no? Andave. E a me come mi senti, Bacchi? Visto considerato che siamo rimasti noi due solamente, ti chiedo come mi stai ricevendo? Beh, Mari, voti, piano, come te, a Tichirri, come te, Ciaturia? 6, che vede, non vai 30 radio 5. Cosa vuoi che sia, non niente, no. Mentre invece se faccio così, poi aspetta un attimino, però ecco, se faccio così la 930 sarà Palma con 35-40 e la radio però è sempre buona, confermi? Si è aumentato qualche decibel, è aumentato e la radio è andata leggermente di saturazione, leggermente. Per nel primo passaggio però, poi no, poi ha migliorato senz'altro. Ah, adesso già vai bene. Ok, sì, sì. Anda bene. Meglio così, dai. E beh, che tempo tira, che vento tira da quelle parti? Cosa sapete di lui? E giù, voglio dire. Tempo brutta. Tempo brutto. Tempo brutto. Vento a tutte le ore. Anda bene. Vediamo cosa sta sfasciando Luca. Luca, il microfono stai sfasciando? No. Niente di questo, niente di elettronica. No, un conto lo sto mettendo a posto, mi si è staccato il piolino e lo sto mettendo a posto. Ah, ho capito. A proposito, da me che mi hanno regalato un pugno di condensatori a secco da regalarti. Vieni a prenderteli quando hai tempo. Ehi, me li dovevo prendere. Cazzo, ce l'abbiamo un bel. E un bel, saranno 7, 8, boh, 10 forse, non lo so, non li ho contati io, non lo so. Bella, 100 euro, bella, 100 euro mi danno. Ehi, di quelli di una volta, quelli che oggi non si usano più, o meglio, si usano in certe apparecchiature, non magari nelle apparecchiature moderne, no, ma in quelle a valvole, quelle di prima già si usano, però la stessa cosa, non cambia niente, dai condensatori di oggi a quelli di ieri è uguale, non cambia niente, cambia solo la forma. Ma infatti me l'ha detto, c'era roba per me, però me la sono dimenticato. Ah, ti sono passato, non mi ricordo quando, ma era richiuso, cioè era aperto ma non c'eri. Allora sei venuto prima delle 4. No, più tardi. Non c'eri, non mi ricordo quando, ma non c'eri. Vabbè, d'accordo, quando vuoi venire a pigliarti, venditi i bigli, non ci sono problemi. Te fai un circuitino, se ti serve, te fai un circuitino. Aia, facciamo una cosa, va. Mi faccio il digitale terrestre, non esce da lì. No, quello non esce, non va bene per quello. Andave, vabbè, ho capito la storia, com'era. Aspetta che no, ecco, per quello, stavo dicendo, come mai tu basso qua? Infatti, ecco, adesso sì, siamo ritornati alle meraviglie. No, avevo abbassato con l'HP6, il riduttore di potenza praticamente, l'avevo abbassato, che ha 6 posizioni, anzi, sì, 1, 2, 3, 4, 6 numeri, sì, 6 posizioni. E di tanto in tanto, quando uso una determinata cosa, devo abbassare di una posizione, se no satura, capito? E allora adesso mi sono rimesso normale come deve essere. Ehi, aia, no, va bene, la grande qua, non c'è problema. Forte e chiaro anche tu qua. Avanti a te, poi volevo sapere quanta devo lavorare a te, ma Marchisio, mi segnale. Vediamo un po'. 9.30 abbondante Luca e radio Super 5. Ma è bello. Già va bene. Stasera stavo ricevendo male, ma sta parecchio giù. Poi segnali furti, tipo Claudio, Franco, così, la modulazione rauca. Stasera, credo, l'ho sentito che era pulitissimo. Che macchina è tutto vacuo, secondo me. Sta dando mal di audio, che cosa ci vuoi fare? Avete quasi lo stesso segnale qua con Luca, con Bacchisio e Luca, tutti quasi lo stesso segnale, Bacchisio è un pochino più forte. Cosa stai usando? Il Typhoon stai usando o Luca? Perché guarda il mio segnale, guarda. Prova, vai. Caspita, 9 desi oggi è abbastanza forte, solitamente in genere 9.5-9.7, oggi è 9.10. Vuol dire la propagazione è buona. Si vede che hai oliato bene il capo dell'antenna e scorre bene adesso la modulazione. No. Devo aver fatto il coso, come si chiama, il finale, me l'ho messo condensato asciutto. Io pensavo che avevi ingrassato il filo e dunque la propagazione scivolava bene. Vero, ma chi? No, il peperoncino gli ha dato un peperoncino al baracchino, esce più forte, capito? Quello è il peperoncino. Bene, dai, io passare il tuo Rex un attimino che è arrivato qualcuno qua a casa. E dunque mi devo allontanare dall'apparato per rispondere alle persone, perché sto facendo una parola all'apparato e una a loro, dunque non va bene. O parlo una parte o parlo l'altra. Ok Giulio e De Luca, per me un attimino di QRX e sediamo poi, dai. Ok, ciao Bachi, ci sentiamo allora, d'accordo, dai, vai Luca. Ehi, a dopo Bachi, ciao, buon QRX. Va bene. Sì, no, volevo dire che ho messo, non è fatto il finale e ho messo una resistenza, ma un diodo, diodo zero. Capito. Diodo zero, perché cosa ti si era bruciato? Guarda, il diodo zero è quello che determina il voltaggio dei certi apparati, dei certi sali. Proprio quello, sì. Quello che ce n'è solo da una parte e basta. Sì, ma cos'è che non funzionava? Il diodo zenere è un componente che determina, per dire, non so, deve uscire in quel determinato stadio, deve uscire 12 volte, 12 volte ti dà, capito? Io l'ho levato al finale e gli ho messo quello, ecco perché mi ascolti più forte. Strano, vabbè, meglio così, dai, evidentemente in avvalia qualcosa. C'è bisogno di una batteria di camion. No. Io non metto batterie di camion, no, io metto solo diodo, solo il diodo. No, io batterie di camion. Ma tu sei camionista allora? Sì, certo. Ah sì, sulla barra pesante, un rimorchio. Sì, uno di quelli più grandi, mi. Ehi, non sei diretta? Zona Olbia, devo imbarcarmi e scaricare la barra pesante. Beh, diciamo che più che la barra pesante devi sganciare il rimorchio. No, praticamente di quelli che tieni solamente la cabina e lasci tutto quanto, no? È doppio. Ah, ho capito. Direzione Olbia. Che tipo di carico hai? Cosa c'hai? Segreto. Non posso spargere la voce. Segreto di Stato. Come? Ho detto segreto di Stato. Roba pericolosa. Ecco, tu porti roba pericolosa, bene vera. Allora c'hai anche l'ADR, bene, hai visto la signorina? Giulio. C'è chi lavora anche a quest'ora. Meglio così. Però sei già un pochino distante da stassa, riconfermi? Confermo. Te lo dico perché mi stai arrivando abbastanza di segnale, però chiara del radio, Meglio così. Questa non si presenta, tra vicino al canale, boh. Per carità. In genere mi chiamano la bionda. La bionda. Ok, comunque sei in compagnia di Giulio, e da questa parte Attilio, avanti. Ciao Attilio, ciao Giulio. Ciao Elga, mi sembra che ha detto, non ho capito bene, perché ripeto, va di bassa, però già riesco a sentire ancora, dai. andare, ma molto distante ci resta adesso? Eh sì, distanza. Ho capito. Avanti qua. Claudio. Ma a me state chiamando, non ho parlato io sono al computer. No, pensavo che tu, però siccome ci siamo quasi incrociati con la portante e ho sentito un pezzettino, l'ultima frase ho sentito e ho pensato che tu, ah vabbè non fa niente, continua allora qua, non ci sono problemi. Vai Luca. Sì, aia, kappa, ok. Ascolta, Ricca, puoi ripetere il tuo nominativo? Perché forse Giulia ha capito male, ha detto Elga, oppure la bionda. No, la bionda. La bionda Sardegna o sei di fuori? No, sono sarda, però faccio viaggi spesso fuori dalla Sardegna. Cappa, va bene, ascolta, ma sei da sola? Compagnia? No, no, da sola purtroppo. Ok, va bene. Ma ti devi mancare oppure devi lasciare tutto lì e rientrare? No, mancare, lasciare tutto lì. No, mi devo imbarcare. Qua c'è un randaggio che sta abbaiando. Che significa che non sei sola? il cane è l'amico più fedele dell'uomo. Ho capito. Vabbè, dai, io chiudo, Lu, ci sentiamo. Ciao Luca, salutoni, alle prossime. Ciao la bionda, allora, salutoni, alle prossime, buon lavoro. Ciao Claudio, che sia l'ascolto, alle prossime, a domani casomai. Riprendi Luca per me e ascolto fino a lì e poi passo il QRT, vai. Vabbè dai, riprendo io, ciao Efisio, ciao Giulio, buon proseguimento. Io mi sto scendendo dalla barra perché devo mangiare. tutto, guarda, ci sei? Secondo noi ti giamo. Vai, vabbè. Ma te è chiaro qua? Ma quella non c'è, ha chiuso, devo far uscire. Ho già fatto. No, no, non è un computer. No, negativo, negativo. Donna, nervo uno, ma solo che no. Ah, c'è un problema se va bene l'attacco. Non so se va bene l'attacco. Non è qua di quelli vecchi, vedi? No, computer, di quelli vecchi, primi, quelli che usavano la Lenin. Non so se va bene, non credo. Poi c'è il cavo tutto nero, era bianco prima, c'è tutto nero. No, c'è il tornellino, ma lo senti tanto. Mi sono capito di buona televisione, no, che quel problema. Gava. Ah, ma tu, su film... ho visto una volta quello, un bel filmone, ragazzi, che me l'ho dato. L'ho visto una volta, non tutto, adesso me lo guardo tutto. Ah, uscì, Vabbè. Adesso chiudo il telefonino e mi chiudo. Oh, via. Vabbè, torni lì, allora. A dopo, Pac. Vabbè, ia. Però te ne potevi andare a pescare? No, poi ia. Gara? Sono volato il telefono, no? Mi chiamo attento, mica lui parla, lui fa del umano, colpa tua, Cioè, cazzo, ti metti un giubbotto come si deve, lo chiudi, oppure chiudi la storia, così non ti cade, lo lasci in macchina. Ti prendi un morsello, come cavolo si chiama, un marsupio. Non so, troppo capita, ma non è più stesso. Vabbè, solo in tre me ne farà, non si è mai fasciato. Ma neanche a me è mai successo, mai. Però domenica sabato scorso mi è successo. Ma così, ma già ho recuperato un altro telefono adesso. L'hanno dato? No, questo è un altro, quello dei frutti dell'Agip ancora no. Cazzo, io voglio prendere il Motorola, quello sottile, quello fine, bello, ma il telefono, piace un male. Ho dovuto passare nel bari, ma era quello mio. No. Vabbè, comunque il Motorola quello c'è per portafoglio, quello sottile. Se l'ha comprato mio fratello, 100 euro l'ha pagato. Sono bello, la cosa anche quello, va bello. Va bene, andiamo con LG, LG si chiama? LG, a Portolino, piccolissimo. Già andava. Già va bene, ciao anche Angela, si è sentita sotto il fondo. Ti saluto. Ciao, vabbè. Torni lì, capita, purtroppo è così. Guarda, una volta guarda, ti comballe. Non so come cazzo ho fatto da accorgermene. Mi è caduto dalla tasca del morto, Cazzo, ho sentito tutti i rumori. Stupido, ragazzi. Mi dico che se non avevi messo un telefonino. Si è fatto a vedere un pezzo, c'è la copra, si è aperto tutto, però non si è rotto. Ciao. Ehi, ciao Angeli. Ehi, lo so, è un problema. Pregate la salute a tutti i dini. Se così mi senti tu. Ehi, allora ho ritardo al microfono, dai. Chi ti ascolta, Vuglia? Insomma, Vuglia, già ti sento, eh. Non c'è neanche un pelo di QRM. Idem. Già 2 settimane che non prende il QRM, Ma io poco fa ce l'avevo, stavo parlando di lui che ce l'avevo. No, io niente, nulla, zero, proprio zero QRM. Gara. Ma infatti sento anche segnali bassi. Anche io ho portato adesso Giovanni, se non sbaglio, no? Giovanni! Allora senti a Torellino! Prova a chiamarlo, vabbè! non sarebbe sentito, con la speranza che mi ascolti qua, Chiappa, chiappa. Sto sempre da tutti, dai. Volevo provare se sentivo la vela, ma lui dov'è, è uscito. Ma non c'è Luca? No, no, l'ho chiuso, a fare roba. Ah, gatto. Iaia, oh, iaia. Piccolo piccolo, dai, andate di lei, andate più che bene. Sì, aia, anche lui. Fase magnetica. Forte e chiaro qua, forte e chiaro! Allora, ma di tutta la gira, torni lì. Ci andava a bruciare gli umbriculi. Perché lui le fischia, capito? Lui fischia anche qua. Meno me, meno me. Agricola. Me ne fregate voi, andate, se siete in giro, così vuole. Dove sei? Ti sei un po' basso qua. Sì, sono all'incrocio tra Brancani e la Ciaculetta. Ecco, vai Tore. Ciao, salvatorista agricola. Senta, sorellina. Sono la tua cugina. E male, dove è sorellina? Già sta bene, da. E chi è la tua cugina? Oh, ma agricola, non mi ascolti. Forse è chiaro qua. Ehi, andava là. Tu sei un po' basso, segnale 5, radio 3. Poi la ti ascolto, là, non c'è problema. Gava gava. Bip. La malagrico, non lo senti, già qua. Non lo senti? Prova a chiamarlo. Fischiare, è vero? No, no. No, come mai? sta funzionando. Sta mettendo funzionare una baratina, no? E lei con la penna andata. Becca di vai. Oh, un bambolino, Dai, dai, mi sta avvicinando l'antenna. Allora, uno frenino lungo, sottile con un affare a stesso, tipo una cosa del genere, poi come talante laterale, da 30-40 minuti, non so, non so, non c'è niente. Quanto è alta? No, non è grande, è alta, sarà 1,20. C'è una mini Grand Prix. Tu mi stai parlando di questa antenna alta circa 1,20 m con questi radialini? Cosa sarà? Una mini Grand Prix. Magari sono anche un po' di sì pure, boh. Mi dico 100.000 antenne. 100.000. Ah, ci davo voi, davo che un pezzo dell'antenna mia, tra 7 metri. Perfetto, esci bene, dai, ti ascolto bene, ma poco fa ero molto basso. Ma hai fatto lo spostamento dell'antenna? Basta. Ma non ho visto da casa tua? No. Nulla? Non c'è nulla, nulla, nulla. Allucinante, io la spegnevo la televisione, la mia, allucinante. Schiacciavo, pa, si chiudava. Ma per ragione tua, è quello di per forza. Sicuramente tu lì poco fa non ti sentiva, boh. Lo rimetterò per la prima e c'è un punto, ma ce ne sta facendo almeno? Di massa, ne sta facendo questa antenna? Sulla testa di ferro. Ma cos'è, un'antenna di casa o di macchina? Con i radiali, ma è teso. Qual è vista? Allora quella lì non è di baracchino, VHF, scusa, VU. Non mi sembra che sia andata nel baracchino quella. Quella è andata nel VHF. Bella, com'era America. Ia. Kappa. Casino, è un casino. Guarda, io l'ho piazzata di prepotenza qua sul tetto. Mia madre non voleva. Mi trovo un baracchino, sì. Già non bendani, senza trattarne e nulla. Non c'ho più niente io, nulla. Anzi, bugia, c'ho solo l'alimentatore di mio fratello. E qualche PL. Ma, guarda, mi ha regalato questo baracchino franco. E da lì ho iniziato. Questo di Polo. Poi di Polo l'ho levato perché è un casino. Ma mi avevo fatto un'antenna da un radiale. Da un radiale di Mantova. E ci un ghisso. Poi ti filmavo un bel. Ma lo dico la tua è alta. Qui sai. Quanto va a 5? A 5? Vabbè, arrivo. Alghero, Porto Torres. Dai, arrivo, dai. Non c'è problema. Solo che sono in un punto un po' critico. C'è Michelino, cambia canale, l'amico, per cortesia, QRO locale, grazie. QRO. QSO, QSO locale. Attento l'amico che chiama Michelino, attento l'amico che chiama Michelino. Qui QSO locale, grazie, dare di giro alla manovella, cambio. Ci sono partiti i giaffi. Queste baracchine più potenti non vanno bene, allora. Ma sei sicuro che non attende la mia, ce l'ho qua? Sì, è attenta di tu, vero via? Anche a Pio di Amoretto. Calma, cappa. Sono cugini con Franco. Ia. Andà bene. Ma chi conosci? Filippo lo conosci? Filippo. Più grande di tutti. rotola, siamo qua. Saluto dentro la rotola, ce la rispettiamo dopo. Cava, dopo, ciao Torelli. Ciao Torelli. Sì, sono miei cugini quelli, cava. Ma conosci anche le sorelle? Marziella. Siamo stati morti. Siamo due figli di questo contatto e... Tonello. Tonello, allora, diciamo che sia più grande. Sì, sì, mio cugino, cugino di primo grado. Cappa cappa. Andà bene, andà bene. E poi lì, vabbè, che cazzo conosco. Vabbè, poi lì vicino all'opera c'è... Non ci abita più, però. Adesso convive come fratello, Silvana. La conosci? Silvana. Via Bottego. Religios. Ah, la ragazza di San Francesco, sì. Carletta. Sì, io ero la mamma di San Francesco. No, abita a Portottore adesso. Vabbè, lui lavora lì. Allora, poi lì non conosco nessuno. Vediamo un po'. La buon'anima di Gabriuccio Scucci Scucci. Cazzo, Gabriuccio. A cosa lo chiede? Sicuramente lui lo conosce bene. C'è una sorella, si chiama Stina, un fratello si chiama Giovannino, poi più piccolo non mi ricordo. Ti do bel nome. Ragazzi, abitano lì dove c'è la piazzetta. Ma però c'è la fermata del tram, molto prima che arrivava la fermata del tram, lì sulla tua sinistra, lì c'è quella specie di piazzettina lì. Lì abitano, lì all'interno. Ah, ho sempre visto le scuole. Cioè, vabbè, che le senti scuole parte, dai. Boh, non so se sono scuole quelle. Comunque abitano lì. Sì, la scuola te li conosci. C'è una sorella che si chiama Tina. Poi Giovannino, la buona di Gabriuccio, che era sposato, cioè fidanzato, ha avuto anche un figlio, con la sorella di cui vendiamo Durrone, non ti diciamo. Oh, ho capito, no, si vede, dai. Ti aveva trovato un moribondo la mano nel letto, sta bene un po' con la gara di pila nel muscolo. La fatica ingrassando di molto un poco, YouTube. Stava gonfiando questa ragazza. C'era problemi respiratori, ed è morto. E già un bel pezzo è morto. All'ospedale, era moribondo in casa, aveva trovato la madre, lo stava chiamando per andare a lavorare, era moribondo. Ma è attivo, e gli è andato lui ormai. E vabbè, ho preso un po' lui. Ehi, carità, e va la giù da cazzo da... innamorata di me, però gli ho mai voluta. Carità, vai. Per carità, e una volta mi aveva regalato questo 50 Mistral, te lo ricordi quella marce? Si chiama così, 50 Mistral, non è regalato la Giulietta. Cazzo, non regalo quello che me la devi lasciare. Qui mi ne ha fatto abbigliare, l'avevo già detto. L'avevo creato un motore, buono. Cazzo, no, me la regalo, non me ne abbigli. Cazzo, non è giunta Edda. Dammi una moto, a chi... Era uno scopo questa moto qua, che me la stava regalando, però ogni giorno l'avevo accompagnata a casa sua. Mi puliva la benzina ogni dia, mi scera, ogni giorno, Ogni dia mi accompagnava le sigarette. Se l'ha già accompagnata da due volte, e questo è troppo. Poi l'ho più accompagnata, e la voleva indietro la moto. Cazzo, gli è giunta la misura. Dammi la moto, te la regalo di sì, la presa a burro, mi è giampata intera, ma lì cazzo in casa di niente. Guarda, hai giocato un dappo di serbatoio, che non è in plastica, sono quelli in lamiera. L'hai passato a fianco. ubriaco anche in capo, questi erano un capo passato, c'era l'ubriaco a capo, la mia la ammazzata. Cazzo mi attacca da me, ma non ti innanzi. Ecco le dai. Oh yeah. Vabbè. No, non commentiamo, va. Carizzaia. Oh yeah, yeah. E vabbè, poi la scusa che conosceva mia madre, stava sempre vicino qua, vicino a casa, nel pianerottolo di casa. Sono tisciuto, dove vai no? Che sto parlando? Vai dimmi! Ma vai dimmi! Ma sto parlando! Vai dimmi ai roghi! Qua non ci devi stare, vai dimmi! Mi faccia la burra! Ma vai! Mi sa che è stata qua e da blu. Lui! Sentiamo più tardi, vado a mangiare qualcosa pure io, va. A dopo, ciao. Ciao, ciao.